Perfetto giorno di Simone Spezia. Le Iene sollevano il caso delle firme per la candidatura di Virginia Raggi, la sindaca. Stiamo facendo verifiche, ma nessuna irregolarità. Alatri, telecamere al vaglio dopo la morte di un ventenne fuori dalla discoteca, picchiato, ricostruzione dei fatti ancora incerta. Russia dopo l'arresto, nella manifestazione di ieri Navalny scrive un tweet dal carcere: un giorno noi giudicheremo loro. Sui vincoli europei ci sono margini di negoziato, secondo il presidente del Consiglio Gentiloni, nel DEF sostegno alla crescita, aggiunge. Pillola dei 5 giorni dopo, l'uso è aumentato di 15 volte in 3 anni, ne vengono acquistate 200.000 all'anno. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666, come sempre il numero per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, e c'è anche la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, dalla quale andiamo in diretta, così come andiamo in diretta anche dalla pagina Facebook di Radio 24. In apertura dunque ci occupiamo di politica, un'inchiesta delle Iene solleva dubbi sulla validità delle firme per la candidatura di Virginia Raggi. Sentiamo. Elisabetta Fiorito, sì. Scoppia un altro caso, firme false nei 5 Stelle per la candidatura di Virginia Raggi a Roma dopo Palermo e Bologna. A sollevare il dubbio il capogruppo della lista Marchini in Campidoglio, Alessandro Onorato, che denuncia il fatto alle Iene. Nella ricostruzione del programma televisivo i pentastellati avrebbero raccolto 1.352 adesioni alla candidatura della Raggi il 20 aprile, ma la data fissata per le firme era il 23, quindi 3 giorni dopo. L'ite e dubbio e presenta, secondo Onorato, irregolarità. Si difende la sindaca Raggi, sentiamola. Non abbiamo l'audio di Virginia, no, abbiamo un problema di audio abbiamo di Virginia. Un problema di audio. Lui chiaramente dice che non il solo, evidentemente oggi. Vai Elisabetta. C'è un po' di burrasca qui a Roma, no? Evidentemente la sindaca dice che invece tutto è stato fatto regolarmente, e a un certo punto è arrivato anche un post del Movimento 5 Stelle: mettetevi l'animo in pace, la Raggi è legittimamente sindaco di Roma, votata da più di 2/3 degli elettori romani. Tutte le firme raccolte a Roma per la presentazione della lista di Virginia Raggi sono autentiche e autenticate. Quindi c'è un nuovo caso, però, perché bisognerà poi vedere cosa succederà effettivamente dopo la denuncia di Onorato. A te Simone. E grazie dunque alla nostra Elisabetta Fiorito. È lunedì per tutti, anche per noi qua. Ci spostiamo ad Alatri, nel Lazio, dove si indaga sull'uccisione di un ragazzo dopo una rissa in discoteca. Sono 9 i principali sospettati per la morte del ventenne Emanuele Morganti, avvenuta ad Alatri in seguito a un pestaggio dopo un litigio per un apprezzamento sgradito alla fidanzata in un circolo locale dell'Arci, o secondo un'altra versione dei fatti per uno scambio di cocktail. La svolta è arrivata dopo l'ennesimo interrogatorio nella caserma dei carabinieri di Alatri. 9 persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla procura di Frosinone con l'accusa di omicidio volontario e concorso in omicidio. Si tratterebbe di un gruppo misto di italiani e stranieri residenti in paese nelle zone limitrofe. A massacrare di botte Emanuele Morganti sarebbero stati più ragazzi, non solo a mani nude ma anche con un arnese di ferro, forse una spranga. Da chiarire anche la posizione di alcuni buttafuori del locale che, poco dopo l'inizio della lite, hanno trascinato fuori il giovane lasciandolo in balia dei suoi aggressori. Anche le immagini delle telecamere sono ora al vaglio degli investigatori per individuare gli autori del pestaggio. Intanto sui social è partita una mobilitazione con l'hashtag Chissà Parli. Secondo il sindaco di Alatri, Giuseppe Morini, la comunità del paese è impietrita. È una tragedia che ha ferito e impoverito l'intera cittadina. Per questo stiamo organizzando una marcia della fratellanza e della pace, ha detto Morini, annunciando anche di voler proclamare il lutto cittadino. I genitori di Emanuele Morganti, nel frattempo, hanno dato l'assenso alla donazione degli organi. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci spostiamo in Russia adesso per l'ondata di arresti dopo la manifestazione di ieri. Alexei Navalny davanti ai giudici del Tribunale Tverska e di Mosca con l'accusa di aver organizzato manifestazioni non autorizzate. Ieri a Mosca il blogger è stato fermato e con lui centinaia di dimostranti. È accusato dell'organizzazione di un'azione di massa che ha causato la violazione dell'ordine pubblico e dunque rischia fino a 15 giorni di arresto amministrativo. Bersaglio prioritario della protesta il primo ministro Dmitry Medvedev, che stando a Radio Eco di Mosca risponde con sufficienza. Domenica ho sciato, racconta dal suo profilo Instagram a un utente che gli chiedeva come fosse andata la giornata. Un approccio rischioso, persino in un paese in cui la popolarità del presidente e dei suoi uomini di fiducia è molto alta. Il tema della corruzione associata agli oligarchi è un marchio mal tollerato anche dalla maggioranza silenziosa. I dimostranti hanno indicato esplicitamente Medvedev che Navalny, in un recente film inchiesta, accusa di aver ricevuto bustarelle dagli oligarchi sotto forma di finanziamenti a una rete corrotta di società ufficialmente non a scopo di lucro e di essersi servito di questo denaro per creare un piccolo impero fatto di ville, terreni, yacht e persino un'impresa vitivinicola in Toscana per un valore di $1 miliardo. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Sono 1.400.000 i cittadini turchi residenti in Germania che da oggi potranno votare al referendum per l'introduzione di un sistema presidenziale in Turchia, dove invece si voterà il 16 di aprile. Il voto all'estero deve essere espresso nelle rappresentanze diplomatiche turche. In alcune città tedesche in cui la presenza di cittadini turchi è elevata sono stati affittati locali esterni ai consolati. Come sapete, la vicenda del voto all'estero, soprattutto dei comizi dei ministri turchi e dei rappresentanti di governo turchi in Europa, sono stati al centro di uno scontro diplomatico proprio tra la Turchia e la Germania. Siamo alla manovra sui rapporti con l'Europa. Ha parlato questa mattina anche il presidente del Consiglio Gentiloni, Vincenzo Miglietta. Buongiorno. Eh sì, buongiorno. Da oggi si entra di fatto nel vivo al Ministero dell'Economia nei lavori per la presentazione da una parte entro il 10 di aprile del documento di economia e finanza e dall'altra della correzione dei conti pubblici come richiesto da Bruxelles per il rientro del disavanzo dello 0,2% del PIL. Palazzo Chigi starebbe pensando ad un decreto da approvare nella seconda metà di aprile. In ballo ci sono 3,4 miliardi da recuperare, però non attraverso l'aumento delle accise. Il PD con Renzi su questo è stato chiaro. Si punterebbe allora su un giro di vite ulteriore all'evasione fiscale e alle risorse derivanti dal vero e proprio boom della rottamazione delle cartelle di Equitalia. In ballo anche il decreto enti locali, che potrebbe essere varato venerdì in Consiglio dei Ministri. Si andrebbe su questo verso uno sblocco del turnover nei comuni, mentre non è stata presa una decisione sui 400 milioni chiesti dalle province. E gli enti locali sono stati ricevuti dal Presidente del Consiglio Gentiloni proprio questa mattina. Tra le priorità, ha ribadito il Premier, c'è l'interesse comune a salvaguardare e a rafforzare l'impegno su lavoro, infrastrutture e investimenti. Quanto all'Europa, ha aggiunto Gentiloni, ci sono norme e vincoli europei che non dobbiamo dare per intoccabili. C'è un margine di negoziato, sapendo che da un lato dobbiamo mantenere gli equilibri, dall'altro dobbiamo ottenere una cornice europea più realistica e rivolta alla crescita. È tutto, linea allo studio. Grazie dunque a Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. Aumenta l'uso della pillola dei 5 giorni dopo. Non è un contraccettivo e a dirlo sono i medici, eppure viene usata sempre più spesso per evitare una possibile gravidanza indesiderata. La vendita della pillola dei 5 giorni dopo è esplosa da quando non è più necessario per le maggiorenni acquistarla presentando ricetta medica. La presidente di Federpharma, dottoressa Anna Rosa Racca. Calcolate che nel 2015 nelle farmacie italiane sono stati acquistati 145.000 pezzi di questo farmaco, di Allawan, mentre l'anno dopo, quindi l'anno scorso, da gennaio a dicembre, se ne sono vendute 237.000 confezioni. L'aumento delle vendite è stato accompagnato dal calo degli aborti, un risultato positivo sia per Federpharma sia per la Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, di cui il dottor Ettore Cicinelli è il segretario. È lui a sottolineare come manchi ancora una cultura della contraccezione. L'impiego della contraccezione in Italia è un impiego molto molto basso, è sempre attestato su una percentuale che non supera il 15-20% a seconda delle aree. Senza contare che oltre alle interruzioni di gravidanza, la contraccezione tramite preservativo è necessaria per arginare l'infezione da papillomavirus, spesso sottovalutata. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso, e lo facciamo un po' in anticipo rispetto al solito, c'è il nostro giro tra le zone colpite dal terremoto. Come sapete, la settimana scorsa abbiamo saltato un paio di appuntamenti per altre notizie che sono sopravvenute. Ebbene, oggi ritorniamo a fare il nostro giro tra le zone colpite dal terremoto, come si diceva. In particolare oggi vogliamo toccare un punto e iniziare a guardare che cosa succede alle categorie economiche. Iniziamo dagli albergatori. Il direttore di Federalberghi Marche, Massimiliano Polacco, col quale abbiamo fatto 2 chiacchiere in merito tanto alla situazione attuale quanto a quel che si prospetta per il futuro. Sentiamo. Allora, stiamo cercando di mettere in piano un piano di comunicazione molto pesante, e cioè di rilancio di tutto il territorio, perché stiamo organizzando insieme anche alla Regione Marche un rilancio d'immagine della zona mare, soprattutto del nostro mare, che non è stato colpito. Certo, gli albergatori si sono messi a disposizione e hanno ospitato circa 8.000 sfollati nel momento del sisma, cioè a novembre-dicembre. Oggi stiamo riportando le persone nell'entroterra, ma soprattutto nelle colline e addirittura nel cratere, perché gli alberghi, alcuni sono collati, ma altri sono in piedi, e pertanto le persone stanno rientrando. Stiamo liberando pertanto tutta la zona del mare, e può essere accolta dal punto di vista turistico. Stiamo anche vedendo una cosa molto positiva che devo far notare, e che stanno ricominciando le telefonate dalla Nord Europa. Germania, Olanda stanno ricominciando a chiamare, stanno prendendo informazioni e stanno cominciando ad arrivare. Pertanto questa fase la stiamo affrontando. Ecco perché, iniziando dalla BIT, sta iniziando un piano comunicativo molto forte nei confronti dell'estero, soprattutto di queste zone nel nord Europa, per far comunicare che il nostro territorio è pronto ad accogliere i turisti. Come sentite, dunque, qualche segnale positivo dalle Marche arriva. Ci spostiamo in Liguria adesso per il grave incidente di ieri. Il TIR non procedeva ad una velocità particolarmente sostenuta e l'autista non era sotto l'effetto di alcol o di altre sostanze. Resta quindi da capire perché all'improvviso ieri mattina, tra Albisola e Celle, Ilin Bildan, 44 anni, cittadino spagnolo originario della Romania, ha perso il controllo del mezzo, urtando un'auto, poi finita in una scarpata, e travolgendo la squadra di operai al lavoro. L'uomo sotto shock ieri non ha parlato davanti al PM, oggi dovrebbe comparire di fronte al GIP per la convalida dell'arresto con l'accusa di omicidio stradale. Al vaglio della procura di Savona ci sono i dati del cronotachigrafo del TIR, nel quale sono registrati i tempi di guida e di riposo. Si pensa ad un colpo di sonno. Secondo un'altra ipotesi investigativa, l'autista potrebbe essere stato distratto da una telefonata giunta al cellulare. A breve sarà interrogato il collega che viaggiava al suo fianco. La procura intende anche valutare la decisione assunta da Autostrade di far circolare il traffico su due delle tre corsie, nonostante la presenza del cantiere. Nel frattempo, all'ospedale San Martino di Genova, le condizioni dell'operaio rimasto incastrato per 3 ore sotto il TIR restano gravissime. Il mezzo circolava in deroga al divieto di transito festivo scattato alle 9, una possibilità concessa per il tipo di merce trasportata, pesce surgelato. In tutto le deroghe previste sono 29. E stamane un nuovo incidente nello stesso tratto della 10, un TIR di traverso sulla carreggiata, traffico di nuovo bloccato per un paio d'ore. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. Andrea Ferro, che ritroveremo, come sapete, come tutti i lunedì con la rubrica Autotrasporti a partire dalle 13.45. L'Italia presenta le sue candidature al patrimonio immateriale dell'UNESCO e ci sono degli spunti interessanti. La festa della perdonanza celestiniana dell'Aquila e la cultura del tartufo potrebbero entrare nella lista del patrimonio immateriale dell'UNESCO. A lanciare all'unanimità la candidatura è stata la Commissione italiana per l'UNESCO. Per la festa della perdonanza si tratta di una ricandidatura e il dossier sarà esaminato a Parigi quest'anno per concludersi nel 2018. Per la cultura del tartufo, invece, la Commissione ha ipotecato la candidatura italiana 2018, con valutazione nel 2019. I due dossier puntano l'attenzione su due aree colpite dal terremoto. E l'idea di inserire la cultura del tartufo nel patrimonio UNESCO è nata proprio a Norcia, come spiega l'assessore allo sviluppo economico Giuliano Boccanera. Diciamo, la cultura del tartufo rispecchia quello che sono le tradizioni, le radici, la cultura dei norsini. Il terremoto ha di fatto bloccato la nostra economia. Rendere in questo momento di nuovo attuale la cultura del tartufo è un momento proprio per rilanciare la nostra economia, le nostre tradizioni, la nostra cultura. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Andiamo a sentire cosa succede sulle strade, ci ritroviamo subito dopo e inizieremo il nostro giro per l'Italia, andremo ad Alatri e poi a Milano, a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato delle Iene che hanno sollevato il caso delle firme per la candidatura di Virginia Raggi, della replica della sindaca. Abbiamo parlato della vicenda di Alatri, dopo la morte di un ventenne fuori dalla discoteca. Si stanno vagliando le telecamere e si stanno cercando maggiori dettagli, si stanno cercando di ricostruire i fatti. Abbiamo parlato della Russia, dopo l'arresto nella manifestazione di ieri, Navalny che scrive un tweet dal carcere. Abbiamo parlato del DEF, del Presidente del Consiglio Gentiloni, che dice sui vincoli europei ci sono margini di negoziato. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia, ma prima di farlo permettetemi di rispondere, come sempre facciamo, soprattutto all'inizio di questa prima parte, ad un paio di SMS e WhatsApp che sono arrivati dagli ascoltatori. In particolare, succede sempre quando ci occupiamo di vicende, come dire, che riguardano il Movimento 5 Stelle ed eletti del Movimento 5 Stelle, e vicende che hanno a che fare con questi elementi, come per esempio il caso delle firme false, il caso sollevato dalle Iene, che non è un caso di firme false, è un caso diverso. C'è la lamentela di: ma perché vi occupate di queste cose? Vi voglio ricordare che in questa trasmissione ci siamo occupati, per esempio, e lungamente, della vicenda dei cosiddetti candidati inesistenti del Partito Democratico a Napoli, così come di mille altre vicende. Quando ci sono ce ne occupiamo, quando riteniamo che siano una notizia e che siano interessanti ce ne occupiamo. Detto ciò, resta quello che lo stesso Movimento 5 Stelle dice in un comunicato pochi istanti fa: Virginia Raggi è stata votata dai 2/3 delle persone che sono andate al voto, alle urne a Roma, e quindi è, come dire, legittimamente dal punto di vista elettorale e popolare il sindaco di Roma. Questo non toglie nulla. Naturalmente su questa vicenda andrà fatta luce, come è perfettamente normale che accada in qualsiasi democrazia. Abbiamo ritenuto che fosse una notizia e così continuiamo a ritenere. Gianetto Regassani, presidente dei Matrimonialisti Italiani, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni. Eccomi, buongiorno. Allora, la vicenda è questa e viene raccontata da Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera. È la storia di una bambina contesa tra padre e madre, una delle tante storie di separazione che finiscono male, che finiscono con appunto un disprezzo reciproco tra ex marito ed ex moglie. È un tipo di vicenda che, se vogliamo, attraversa molte ex famiglie italiane. È una vicenda nella quale sostanzialmente succede questo: che la madre, la bambina, sostiene che il padre è un violento, ed è violento anche verbalmente e via dicendo. Lo descrive come una pessima figura. I giudici esaminano il padre, fanno tutte le perizie che devono fare, tutte le verifiche che devono fare, e scoprono che in realtà è un povero Cristo, un bravo uomo, una persona gentile e tranquilla. E apprendono invece che è la madre ad aver convinto la bambina, almeno questo secondo la valutazione dei giudici e delle perizie, ad aver convinto la bambina di tutte queste cose negative che riguardano il padre. E che cosa impongono? Impongono alla madre di parlare bene del padre alla figlia. È una sentenza particolare, Gassani, no? Ma sì, una sentenza particolare emessa da un tribunale che fa scuola in tutta Italia, perché il Tribunale di Milano indubbiamente è un po' la patria del diritto di famiglia, ed è una sentenza che non ha precedenti, che però in qualche modo cerca di fare argine ad una emergenza nazionale, che è quella della contesa dei figli, che nelle separazioni e nei divorzi sono un bottino di guerra, sono un terreno di vendetta e di rivendicazione senza esclusione di colpi, e da più parti ormai i tribunali stanno cercando di trovare delle soluzioni. Non a caso a Roma 2 mesi fa una madre fu condannata a 30.000 euro di multa perché frapponeva ostacoli al rapporto tra il padre e il figlio. Adesso a Milano addirittura si spingono a imporre alla madre di parlare bene del padre. Evidentemente le perizie e il lavoro dei giudici le avrà portati a pensare che si trattava di una madre manipolatrice, poi si vedrà se in appello usciranno ovviamente realtà, è chiaro. Però il primo grado sancisce questo. È un principio importante, perché spesso e volentieri il genitore collocatario può in qualche modo scalfire la figura dell'altro genitore, la può distruggere, può allontanare l'altro genitore a proprio piacimento attraverso un lavaggio del cervello. È chiaro che se una madre o un padre, a seconda di chi è collocatario, dipinge l'altro come un genitore cattivo, violento, manesco, è normale che un bambino sia condizionato, e tutto questo è un fatto antisociale. Sì. I costi sociali poi di questi bambini contesi sono enormi, perché poi interverranno i servizi sociali, i servizi psicologici, ed è una cosa tipicamente italiana. E i costi, e i costi umani, naturalmente, Cassani, senza considerare quelli, cioè il peso che rimane evidentemente su questi bambini. Qua si dice nella sentenza: la bambina assume come proprio il pensiero materno, che sul padre esternalizza ogni colpa nel tentativo di sottrarsi all'implicazione personale del fallimento del progetto di coppia, perché poi c'è dietro questo anche. Ma è un classico, si creano le alleanze tra genitori e figli, il genitore collocatario, il padrone dei figli, parliamoci chiaro, perché in Italia poi l'affidamento condiviso non esiste, è soltanto una mera enunciazione di principio. In effetti abbiamo sempre i genitori collocatari e l'altro genitore che ogni tanto va a fare visita e vede i figli magari a weekend alternati. Quindi abbiamo cambiato i nomi degli istituti, ma la sostanza è sempre la stessa. Ci vuole, secondo me, anche a livello sociale un balzo in avanti, e i tribunali stanno lavorando per cambiare la cultura sociale con provvedimenti eclatanti che fanno discutere come questo. Gassani, ultima domanda: ma si può controllare una cosa di questo genere? Come lo verifichi che una madre parli bene del padre alla bambina? Beh, molte volte queste cose ti scivono dalle mani. Ci vogliono anche avvocati preparati, servizi sociali pronti, magistrati illuminati e coraggiosi che affrontano il diritto di famiglia non come un recupero crediti, ma come una vicenda che va a toccare diritti non indisponibili e troppo importanti. Quando una famiglia si ammala probabilmente una parte di società, una cellula della società. Ci vogliono magistrati importanti, magistrati come quelli di Milano, che sicuramente fanno scuola. La ringrazio, grazie. Genettore Cassani per essere stato con noi, presidente dei matrimonialisti italiani. E veniamo a una vicenda, una brutta vicenda di cronaca, quella che arriva da Alatri, dove, come ormai sapete, un ragazzo di 20 anni è stato ucciso davanti ad una discoteca in quella che al momento appare essere una rissa. Il motivo per il quale, qualche ascoltatore ce lo chiede, perché non dite la nazionalità degli aggressori? Perché non si sa esattamente quali sia la nazionalità, perché noi le cose non le diciamo finché non sono verificate, finché non abbiamo una conferma dagli inquirenti. Dato che al momento si indaga su varie ipotesi, certo, c'erano anche delle persone di origine albanese all'interno di questo locale e anche tra i buttafuori, e però non si sa ancora che ruolo abbiano avuto questi, che ruolo abbia avuto il buttafuori italiano e così via. Si stanno vagliando le cose. Intanto saluto Giuseppe Morini, che è il sindaco di Alatri. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno a voi tutti. Allora, ieri tra l'altro era prevista una fiaccolata che è stata annullata proprio per il rischio di incidenti, no? No. La fiaccolata ieri non è stata organizzata. La fiaccolata ci sarà mercoledì, perché noi abbiamo chiesto le autorizzazioni, quella ufficiale. Ieri è stata una cosa estemporanea, mai autorizzata, mai richiesta. Noi al comune ancora non è pervenuta nessuna richiesta, perché noi dovremmo inoltrare alla questura e ai carabinieri l'autorizzazione, la richiesta di autorizzazione per poterla fare. Però il privato deve chiedere al comune, il comune poi gira la richiesta. Sì. A caldo, così qualcuno ha deciso di fare una fiaccolata perché ci stava bene, però poi si sarà reso conto che magari, non avendolo chiesto, non potendola fare così a bruciapelo, e forse sarebbe stata comunque anche un po' pericolosa. Reato, tra l'altro pericolosa. Teme ritorsioni sulla comunità albanese, sulla vostra comunità albanese, che se non sbaglio folta? Sì, però guardi, noi non dobbiamo colpevolizzare questa etnia o l'altra etnia. Da Alatri convivono serenamente una comunità romena di 2500 persone, una piccola comunità albanese e la nostra comunità. Gli albanesi e i romeni che lavoravano insieme agli italiani nei cantieri, perché prima questa città si distingueva per l'attività edilizia molto sviluppata presso i cantieri grandi di Roma, ecco, diciamo che non hanno creato mai problemi. È chiaro che tra di loro, qualche volta, appena arrivati in questo paese, prima che si integrassero nella nostra cultura, nella nostra civiltà, nei nostri costumi, bevevano. E magari di sabato, tra ubriachi, facevano qualche scazzottata, si scambiavano qualche alterco, ma tutto è rimasto abbastanza gestibile. Mai è successo un ferimento, mai è successo niente di questo genere, dice. Solo questa volta, questo è un episodio straordinario, una doccia, come si dice, fredda per tutta la città, che è attonita e basita, perché veramente non siamo come reagire, non sappiamo come reagire, perché ci siamo solo spaventati, non ci aspettavamo tanta barbarie. E sappiamo che in quel locale c'era di tutto, c'erano gli italiani, c'erano gli albanesi, c'era gente di Alatri, gente di fuori, di altri comuni, perché c'è una commistione di frequentatori, perché prima c'era una grande discoteca nei paraggi che è stata chiusa, conteneva 1000 persone, e adesso quella discoteca non lavora più e quella gente si riversa in tutti i locali che trova aperti, diciamo, e c'è un sovraffollamento qui ad Alatri. Quindi Morini non teme ritorsione, questo temo di no, perché sono che è molto, almeno il comando dei carabinieri, noi abbiamo una caserma, una compagnia qui locale, brevemente, che dobbiamo chiudere, Trontolla controlla un grosso territorio, ci si sta attivando per evitare questi fenomeni. La ringrazio, grazie a Giuseppe Morini, sindaco grazie di Alatri, lei, per essere stato con noi. Una buona giornata e naturalmente un buon lavoro in una giornata difficile evidentemente per la città. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati. Nel frattempo vi dico che vi ho dato una fake news all'inizio della trasmissione, nel senso, vi ho detto che eravamo in diretta su Facebook, invece oggi abbiamo qualche problema per quanto riguarda la diretta Facebook e quindi non siamo in diretta. Andate sulla pagina di Effetto Giorno, cliccate mi piace o seguite la pagina, così sarete aggiornati quando saremo in diretta e riusciremo a ripristinare qualche problema tecnico rispetto a un lavoro che fanno, insomma, come dire, solitamente dall'altra parte, che è sempre un lavoro ottimo dall'altra parte, intendo per la parte tecnica. Ci fermiamo, ci risentiamo per la borsa. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: ci sono 9 indagati per la morte di Emanuele Morganti, il ragazzo ucciso ad Alatri, la notizia di pochi istanti fa. Gli investigatori stanno vagliando le posizioni, appunto, di 9 persone, 6 italiani e 3 albanesi, che potrebbero aver partecipato al pestaggio. Le Iene hanno sollevato il caso delle firme per la candidatura di Virginia Raggi. La sindaca dice: stiamo facendo verifiche ma nessuna irregolarità. Russia, dopo l'arresto nella manifestazione di ieri, Navalny scrive un tweet dal carcere: un giorno noi giudicheremo loro. Sui vincoli europei ci sono margini di negoziato, dice il presidente del Consiglio Gentiloni, nel DEF sostegno alla crescita, alla borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo a chiudere. Prima di dare la linea a Mario Platero con America 24, vi ricordo sempre, ve lo ricordo tutti i lunedì, che l'edizione del lunedì di Effetto Giorno è un po' più corta, perché poi daremo la linea alle 13.45 ad Autotrasporti di Andrea Ferro. Prima di chiudere, si diceva, torniamo sui luoghi del terremoto, come si diceva, stiamo scandagliando la situazione per quanto riguarda soprattutto le categorie economiche e come stanno vivendo questa fase, questo nelle regioni più colpite. Andiamo dagli albergatori abruzzesi, Gianmarco Giovannelli, presidente di Federalberghi Abruzzo, appunto. In realtà, pur essendo ottimisti di natura, viviamo un attimo di rallentamento sia per le feste pasquali, per i ponti, ma anche per quelle che sono i dinamismi preventivi all'inizio della stagione. È chiaro che ci troviamo in una condizione assolutamente inserita dell'atmosfera cratere e quindi di tutte le tematiche tristi che sono state subite da questi territori, fino anche al caso Rigopiano, che comunque per l'Abruzzo è stata una tristissima pagina che ha concluso tragicamente un periodo di eventi atmosferici veramente preoccupanti. Abbiamo avuto la necessità di accogliere due tipologie di emergenze: i terremotati delle Marche, che temporaneamente abbiamo accolto con molto piacere nello spirito che ci contraddistingue dal 2009, quando 50.000 aquilani sono stati accolti nella costa abruzzese, e poi anche gli sfollati teramani che purtroppo con il caso neve e con anche alcune scosse abbastanza invadenti da un punto di vista sismico hanno deciso insomma di temporaneamente trasferirsi sulla costa, mantenendo chiaramente gli impegni lavorativi nella città, ma solo perché era possibile ed è possibile potersi spostare giornalmente, data la vicinanza che c'è tra il capoluogo di provincia e le località costiere. Di queste famiglie hanno doppie case, quindi è stato anche più agevole, al di là di chi ha avuto invece bisogno poi di un alloggio alberghiero. E questo dunque Federalberghi Abruzzo. Adesso andiamo a sentire America 24 con Mario Platero. Ci risentiamo alla fine per i saluti.